camminerò, io camminerò. A nevi sarà, mi sorriderà. Quando il vento si alzerà, nei tuoi capelli soffierà. Con ali grandi partirò per mari e deserti. Adesso dimmelo, sì già lo so, ma adesso dimmelo. La notte piove addosso a noi, e questa neve non sta su, come un sospiro scende giù. Dal mondo fin qua giù. Deserti